fai subito un po' di decisione, è vero, una mezz'oretta, in maniera che poi possiamo, e non sottolineare come, seppure con impostazioni proprio anche, come posso dire, di metodo diversa, queste due relazioni siano alla fine andate a concludere in una problematica comune che è molto stretta, insomma, molto precisa, quindi non mancheranno certo le richieste di intervento. Buona. Al momento c'è qui un aggeggio che Eine kleine Frage an meinen Vorredner für diese interessante komparatistische Betrachtung für die Entwicklung von Rechtsstaat in Europa. Ich wollte fragen, welche Bedeutung die in Deutschland eigentümliche Trennung zwischen formellem Rechtsstaat und materiellem Rechtsstaat eigentlich in den anderen Gesellschaften und Staaten gehabt hat. Sie haben ja von den Rezeptionen gesprochen, die ja weitgehend zwischen Frankreich und Deutschland, aber das später natürlich auch zwischen Italien, mit Italien und Spanien stattgefunden haben. Wie hat diese Trennung sich eigentlich auf die Diskussion und Formation von Verfassungsrecht ausgewirkt? Nach meinem Eindruck, also der Bundesvertretung für den formellen Rechtsstaat ist Stahl, ja, der eine große Bedeutung gehabt hat und zum konservativen Spektrum in dieser Zeit gerechnet werden muss. Sie haben zu Recht gesagt, dass der Liberalismus bei der Ausprägung des Rechtsstaats die entscheidende Wirkung hat. Wie ist in diesen Staaten der konservative Anteil durch die Formierung eines formellen Rechtsstaatsbegriffs bekämpft oder eliminiert worden? Denn das Ziel ist ja immer, einen materiellen Rechtsstaat zu gewinnen, der sozusagen ein Ideal von Gerechtigkeit in der Lage ist, zu realisieren. Was meine sind materieller Rechtsstaat? Materieller Rechtsstaat ist der Inhalt der Gerechtigkeit. Formeller Rechtsstaat heißt nur der Vorrang des Rechtes und der Vorrang des Gesetzes und fragt nicht danach, welchen Inhalt dieses Gesetz hat, ob es ein gerechtes Gesetz ist. Der Nationalsozialismus hat sich als Rechtsstaat bezeichnet. Der sozialistische Rechtsstaat ist nach 1945 in Ostblockstaaten immer wieder als eine große Errungenschaft gefeiert worden. Das heißt, die Trennung zwischen materiellem Gerechtigkeitsprinzip verpflichteten und dem formellen, nur dem äußerlichen Gesetz folgenden Rechtsstaat sind zwei Seiten einer Medaille, die oft viel Unheil angeht. Darf ich auf der Rechtsstaat vorstellen? Natürlich. Io devo dire, capisco cosa lei indica con materiale Rechtsstaat. Io ritengo però che questa espressione non vada a connotare una fase storica dello Stato di diritto. Cioè, è un concetto, no? Che può servire per capire meglio, ma non è una fase nella storia dello Stato di diritto. Io ritengo che lo Stato di diritto sia stato quella forma di Stato vincente in Europa, ho accennato fino agli anni 20, no? Fin quando era sufficiente rimanere su un piano formale, no? Per contenere, diciamo, il politico, l'organizzazione della società civile e del suo rapporto con il politico. No? Quando questo non è stato più sufficiente, secondo me non è che c'è stato uno Stato di diritto materiale, c'è stata un'altra cosa, cioè che Poi chiaramente nel linguaggio politico le costituzioni nostre contemporanee, allora lo stato di diritto sociale, lo stato di diritto democratico e quant'altro occorre, però in realtà, per me questo è molto importante, non è più lo stato di diritto del quale ho parlato io. Questo deve essere, è qualcosa che costruisce l'organizzazione normativa del politico, cioè costruisce l'organizzazione normativa del politico a partire da altri presupposti, no? Questi presupposti diversi si affermano di nuovo un po' in tutta Europa, secondo me negli anni 20-30 di questo secolo. Questo in Germania, in Italia, ma anche di nuovo in Francia. E questo va nella direzione che lei diceva, esprimendola con l'aggettivo materiale, ma ripeto, non è più la dottrina dello Stato di diritto del quale parlavo io, e non a caso la dottrina della Costituzione, di Verfassungslehre, no? Quello è il nuovo contenitore dottrinale di altre cose, no? Che non erano né prevedibili né contenibili nella dottrina dello Stato di diritto. Quindi io vedo una separazione dal punto di vista di evoluzione storica. Grazie agli interventi. No, che c'è? Ho incontrato lì, ma c'è mia. Allora, Sie haben eben das System von Unterschied von formellen und materiellen Recht interpretieren. Ich möchte die Freiheit nehmen, dieses Unterschied zu Ihrem eigenen Vortrag heranzuziehen. Und Sie haben betont, dass das Gebrauch von Privilegien im Ancien Regime auf fast alles Bezug nehmen könnte. Und damit haben Sie sozusagen sich die Notwendigkeit entnommen, auf die materielle Seite des Privilegiums einzugehen. Gewiss haben Sie angedeutet, dass das Privilegium immer in Bezug auf den Gemeinwohl benutzt worden ist, aber man hatte zum Beispiel die Frage stellen können, oder man kann die Frage stellen, ob es da vielleicht eine Beziehung gibt zum sozialen Gerechtigkeit, zum Beispiel, wenn man sich fragt, wie das Privilegium in eine Situation wie die Niederländer gearbeitet hat, da hat es immer eine sehr starke, sagen wir, publike Funktion gehabt. Es ist immerhin ein Instrument der Politik gewesen. Und damit kommen die Fragen der Gerechtigkeit und der sozialen Organisation hinein, wie Sie sie auch angewiesen haben in der heutigen Zeit. Wenn man diese Frage beantworten kann, dann gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit einzugehen in die Zentralproblematik dieser Konferenz, ja, ja. Und zu sehen, wie die Begriffe sich geändert haben, aber dieselben geblieben sind und so weiter. Was für Funktionen kann man andeuten im Ancien Regime, die von Privilegien erfüllt worden sind, die vielleicht die Grundlagen gewesen sind für ihre Transformation? Eine begriffliche Präzisierung dessen, was Privileg meinte, würde noch einmal einen zweiten Vortrag verlangen. Und ich habe natürlich hier mich auf pauschalisierte, aber durchaus konkretisierbare Kerne dieses Begriffs beschränkt. Eines ist sicherlich nochmals zu betonen, dass das Privileg sich definieren lässt als Gegensatz der Egalität. Und eine Gesellschaft, die der Gleichheit frönt, sie sucht, verlangt, als politisches Postulat auch in Verfassung bringen will, muss automatisch gegen das Privileg Votieren. Das ist das eine. Zum anderen hatte der Staat aber nicht die Instrumente, sprich das Gesetz, parat, beziehungsweise noch nicht den Verwaltungsakt als durch Gesetz legitimiertes Instrument, sodass sie an einem überkommenen Instrument wie diesem noch festzuhalten genötigt war, das verwaltungsrechtlich eben. Insofern gibt es also zwei Schienen, die absolute Bekämpfung per Herausziehung, wird dieses genannt, zum anderen noch die Tradierung, etwas, was man zur Organisation und Realisation staatlicher Zwecke benötigt. Diese neue Tendenz ist erkennbar auch schon aus der Regie durch die Legitimation im Wege des Bonum Publicum, die Belegung nicht mehr Ungleichheit im eigentlichen Sinne zur Begünstigung eines Individuums schaffen, sondern möchte helfen, öffentliche Wohlfahrt oder Staatszwecke utilitaristischer Art zu erfüllen. Das sind zwei Wege, die sich überschneiden. Und unser zweiter Weg, der Nützlichkeitseffekt, verfällt auch mit dem Gleichheitspostulat. In Frankreich sind nur noch die Privilegien im Sinne von Gläubigerrechten bei der Befriedigung von Konkursen gebraucht. Das ist das einzige Rechtsgebiet, wo der Begriff Privileg noch geduldet wird. Sonst nirgends, weder Familienrecht, noch im Erbrecht, noch in anderen Handelsbereichen. Und es strahlt auch auf deutschen Platz. Man darf es nicht mehr benutzen. Der Sache nach ist es aber noch zum Teil unter anderen Namen vorhanden. Deshalb auch dieses Verschwimmen der Begriffe, die sich lösen möchten von dem Odium eines Privilegs. Das war nicht zeitgemäß, war ideologisierbar und durfte nicht sein. Mehr kann ich im Moment dazu nicht sagen. Das sind die beiden Schienen eines ursprünglich einheitlichen Instruments des Rechts, was eben eine erstaunliche Traditionskraft und Beharrungskraft bewiesen hat und heute als gesellschaftlich-soziales Kennzeichen noch vorhanden ist. Aber natürlich nichts mit diesem alten, durchwuchten und erteilten Privileg zu tun hat. Heute geschieht diese Privilegierung noch anderen Wegen. Interessantissima naturalmente la ricostruzione anche per quanto riguarda la circolazione di grandi modelli. Tu hai parlato della circolazione di Burke in Germania e parallelamente disabili in Inghilterra, ma si potrebbero aggiungere altri nomi, per esempio von Gnast, che in Italia circola per quello che dice dell'Inghilterra, per cui in fondo al di là di questa circolazione dei modelli c'è proprio molto spesso forse un riferimento dei modelli costituzionali visti attraverso ciò che un grande dell'epoca diceva di quel modello costituzionale. Come è un esempio, no? In Italia si guarda all'Inghilterra attraverso l'occhiale Comnas, molto spesso per cui si finisce per guardare quel modello costituzionale attraverso ciò che quello scrittore fortunato del momento, ad esempio, l'antici di quel modello costituzionale, qui è importantissima questa dimensione. La sfida che tu lanci per quel che riguarda lo Stato di diritto, e dici qua qualcuno pensa che si possano garantire i diritti e non si fa con il diritto, hai sentito molto in questa dimensione. La mia domanda è, cioè, sono d'accordo in questo senso, non si pensa che si possa fare così, ma qual è il ruolo della politica allora? Tu hai detto si è disillusi nei confronti della politica, allora ecco questa nuova sfida. Non hai anche tu l'impressione che la politica che si butta dalla porta, si cerca di espungere in modo radicale, poi rientra in modo potentissimo dalla finestra, nella misura in cui reiteratamente negli stessi autori che tentano questa operazione si ribadisce sempre che pure c'è una dimensione che sfugge ed è quella appunto della politica. È quella di, lo dirò poi nel mio intervento, ma comunque anticipo così magari lo taglio, è strano che quando si legge la voce politica, per esempio, di Sant'Angelo Scopa all'inizio del Novecento, per l'Enciclopedia Giuridica, in fondo si dica che si comincia con quella frase di Leon Gambetta, la politesse se che non si rifà, eccetera. Quindi la politica ritorna a un bel quadro di legittimazione proprio nella misura in cui, tentando di espellerla, dicendo che in fondo bisogna giuridificare al massimo, poi si arriva a un punto oscuro in cui la politica ritorna con tanta maggior forza di prima, di quando si era detto che la politica era una certa cosa, che era anche chiedo aiuto. No, la prima cosa è chiarissima, cioè quando io parlo di circolazione di idee costituzionali, di modelli costituzionali, ne parlo tramite questi grandi tramite, no? Come Kleist, non è solo il caso suo, per esempio noi ancora dobbiamo studiare sul piano delle fonti, stasera sembra una bellissima ricerca, come viene conosciuto il modello costituzionale inglese in Italia nell'Ottocento, per esempio attraverso quali storie costituzionali dell'Inghilterra, no? Questo mi ha sempre incuriosito. E ancora non abbiamo le idee chiarissime su questo. Sono convinto che nel bagaglio dei giuristi italiani dell'Ottocento ci sia non solo Kleist, ma tutto, come dire, una vulgata di questa ancient constitution inglese che la idealizza a dismisura, la rende simile nel metodo studio di storia costituzionale a quell'immagine un po' mitica che avevano le colonie americane prima di fare la rivoluzione della Costituzione inglese, qualcosa intangibile che sta a fondamento di istituzioni, ma qui parliamo dell'Ottocento, no? Quindi qui siamo all'età in cui a sua volta la Costituzione inglese era già divenuta altra cosa, ma mi spiego, ma l'importante è essere consapevoli di due piani, cioè il piano della circolazione di idee va studiato in quanto tale per capire come ha funzionato nel costruire un modello costituzionale che poi eventualmente diventa anche operativo, no? Nel senso che per questi giuristi diviene anche norma d'azione per costruire gli istituti, ma non è detto che la ricostruzione sia quella della realtà delle cose del paese straniero, no? Però l'immagine, secondo me, è possibile, meritorio oggetto di studio quanto la descrizione della realtà vera. In questo quadro avrebbero analizzati casi come quello di Kleist e altri. L'altra è la domanda delle domande, Raffaella, cioè il ruolo della politica. Dunque, credo che la parola chiave che mette un po' alle corde la politica, certo non la elimina, loro non lo sapevano neanche bene, è artificio. Cioè, secondo me, la politica che essi dispregiano, che vogliono veramente eliminare, è la politica in quanto artificio, in quanto costruzione, come dire, libera e volontaristica del proprio destino. Ecco. Allora, contro questa idea usano materiali diversi, no? Che sono, dico io, a fondamento storicistico, sia tedesco, inglese che altro. Naturalmente non pensano di poter fare a meno della politica, ma quando Orlando dice che il Parlamento non è scelto, che non c'è un indirizzo politico, no? Che le elezioni non trasmettono la politica, ecco, io credo che nonostante tutto ci sia sì forse un po' di strategia, ma c'è la convinzione che il vero modello liberale appunto escluda questo che noi nel diritto istituzionale moderno chiamiamo di indirizzo politico, lo escludano, e che un buon e ordinato Stato sia quello nel quale le regole consentono di far prevalere coloro che già sono parte evidente della società. Questo per me poi concretamente vuol dire storicistico. La politica non crea la direzione della cosa pubblica. Perché questa è già nella società stessa. Si tratta di avere buone regole per farla emergere. Per esempio, il suffragio nominale è mitico del suffragio di lista a questo fine, no? O una certa organizzazione degli enti locali migliore di un'altra a questo fine. Quindi, da questo punto di vista, ti confermo che c'è una lotta nei confronti della politica, ma della politica così intesa, no? Perché poi il bello è che far prevalere quella parte migliore che già tale la società, significa dargli un grande mano libera del fare politica, che è la politica dell'Italia liberale. Però l'importante è che quella classe politica sia fatta di coloro che sono già classe dirigente della società, che non sia artificiosamente creata sulla società. E quindi questa seconda viene sì. Grazie. Intervengo sulla relazione di Maurizio Fioravanti. Dunque, la prima osservazione che volevo proporre per la discussione è questa. Cioè, non credo, ma pongo sempre i termini ovviamente molto problematici, cioè non mi sembra che il concetto di Stato di diritto sia un concetto, come dire, univoco, ma che invece si arricchisca storicamente, cioè proprio nella storia costituzionale e particolarmente nella storia costituzionale tedesca, di una pluralità, molteplicità di riferimenti semantici che appunto mutano storicamente. Per esempio, già Stein parla di Stato di diritto, ma lo intende semplicemente come la necessità di un diritto del governo conforme alla Costituzione. Si parla di un regierungsrecht, di un verfassungsmäßiges Regierungsrecht. Se guardiamo invece l'evoluzione del concetto già Jene, che è stato proprio alla fine del secolo, invece il concetto è proprio quello di diritto, ovvero diritto pubblico soggettivo, cioè un diritto soggettivo azionabile, e questa mi sembra la caratteristica conclusiva, la piena maturità del concetto alla fine del secolo. Ed è appunto la forma, secondo me, con la quale si diffonde in Europa, cioè proprio l'idea centrale di giustizia amministrativa. Ecco, questo mi sembra la nota caratterizzante. E poi un altro punto, è vero che questa dottrina ha un respiro europeo, penso appunto alla diffusione della dottrina di Jene in Italia e ora anche in Spagna, io non sapevo questo aspetto che bisogna invece rilevantissimo, però mi chiedo, la dottrina di Jene e soprattutto il sistema pubblicato nel 92 era la dottrina dominante durante l'età di 2000? E soprattutto la polemica tra Jene e Laban che nega che si possa parlare di diritti soggettivi, non sono diritti del caine rette, delle norme, ci cioè sono appunto norme oggettive, nega la dimensione soggettiva che invece viene ribadita fortemente da Jene. Quindi in sostanza mi pare che si diffonda a livello europeo una dottrina cui invece non che non era corrispondente alla realtà costituzionale, cioè la fase finale, infatti. E questo è il paradosso, vorrei dire, dell'opera di Jene. La dottrina dominante della Guglielmina non è quella del Reichstag, ma dello Staatsrecht, della centralità dello Staatsrecht. Quindi tutto sono. Ma è per me tuttora, come vedo anche dalle cose che dici tu, che sono in continua evoluzione anche rispetto a quelle che hai iniziato lui, che anche per me è tuttora molto problematico. Ma dunque è chiaro, ho molto semplificato questa pluralità di nozioni di Reichstag, è notevole non solo in Germania, che quando gli italiani dicono stato giuridico, per esempio, preferenza rispetto a stato di diritto, significano cose molto diverse, per esempio tra i costituzionalisti e gli amministrativisti, tra Orlando. Questo lo do per scontato. Io avevo posto solo un problema, cioè è possibile individuare un nucleo fondamentale europeo dello Stato di diritto che viene costruito in tempi storici simili, torno a quella formula che ho operato, e sono questo credo sia obiettivamente vero, della disillusione politica. Questo è vero per la Germania, l'Italia, sono tempi diversi, ma sono il tempo, è sempre il tempo della disillusione politica in questi tre paesi, no? È possibile trovare un minimo comune denominatore? Ecco, io credo che sia in due punti. Il diritto si garantisce con il diritto, che in prospettiva è l'azionabilità di fronte ai tribunali, e la buona Costituzione è la Costituzione che tende all'equilibrio. Perché nell'immaginario di questi giuristi, ribadisco, la Costituzione della rivoluzione sono costituzioni monistiche, sono costituzioni che come primo compito hanno quello di individuare la suprema potestà, il legislatore, la volontà generale. Questi due punti mi sembrano comuni, e lo ribadisco, a una buona parte della dottrina europea e ho il sospetto, tutto da accettare, questo è un programma di lavoro, come avete capito, che questa comunanza di idea delle dottrine corrisponda a una comunanza anche di istituzioni, che forse questi due punti siano il patrimonio vero dello Stato di diritto come formula europea. In questo senso, forse questo scandalizzerà, non c'è l'Avat dentro, certamente, ma non è che perché è tedesco debba stare nello Stato di diritto, non è che perché fui caposcuola in alcuni anni in Germania debba far parte di questo disegno europeo. Tant'è vero che quando, le poche volte che l'Avat è stato tradotto in Europa è stato in balsamato. Io sfiderei qualcuno a dire quale operazioni della dottrina italiana importanti si sono fondate sulla dogmatica di Lavat, nessuno. Mentre si sono fondate molto sulla dottrina dei diritti pubblici di Hendrik, si sono fondate su Otto Mayer, per esempio, che è altro capitolo, quello dell'amministrazione che non ho toccato, dove c'è una problematica in Otto Mayer ben più travagliata nello Stato di diritto. Che non in Lavat. Quindi può sembrare paradossale, ma nella mia logica questi grandi nomi escono fuori da quella che io chiamo la dottrina dello Stato di diritto, perché in realtà se la si cerca di vederla dal punto di vista europeo, i personaggi interessanti sono quelli che più sono adatti a far parte di questo minimo comune denominatore. Quindi Orlando, scherzando, forse diceva Jedinek che è il più latino dei giuristi tedeschi, no? E all'inizio mi sembrava un discorso retorico, no? Così, e forse c'era invece qualcosa di vero dal punto di vista di Orlando in questo, e su questo ho chiamato a riflettere su questo. È chiaro che escono fuori, come dire, da questo quadro di più tedeschi, ma forse anche più francesi, cioè quelli che hanno più costruito le loro fortune sulle scuole nazionali di diritto pubblico, no? Questo è un po' la mia risposta. E anche l'uso che vuole della parola, volevo anch'io più una roba e anche tanti, comunque adesso siamo tutto. Io volevo solo intanto dire che entrambe le relazioni hanno molto fortemente insistito, una in maniera più esplicita, una in maniera più implicita, sulla possibilità di fare storia europea di queste cose. È una banalità, però è una banalità da aggrapparsi, cioè bisogna davvero fare un modo di fare queste cose, quindi grazie, perché davvero finora non è mai stato fatto da nessuno, non dico solo in Italia o in Spagna, neanche in Germania o in Francia, quindi questo è veramente importante. Io porterei addirittura l'ipotesi che ci ha presentato un progetto del programma di lavoro, l'ipotesi che ci ha presentato Maurizio, al di là delle sue intenzioni, perché sicuramente ho trovato in questa sua idea che ci ha proposto delle cose che le rimbombi, insomma, di cose che io anche sto studiando da un altro punto di vista. Proprio a Barcellona da Petit io avevo provato a dire che secondo me tra 700 e 800 si verifica una mutazione cruciale della storia costituzionale europea, e in modo paradossale dicevo che questa mutazione consiste nel venir meno dello Stato e nel fatto che lo Stato viene sostituito dall'ordinamento. Ecco, io vorrei dire questa cosa qui, insomma, perché ho l'impressione che questo Stato contro cui, questo Stato monistico contro cui lo Stato di diritto europeo dell'Ottocento si costruisce, non sia tanto lo Stato della rivoluzione, ma sia molto di più, cioè sia tutto lo Stato dell'antico regime, cioè sia la grande tradizione statale europea dal 300 all'800. In questo senso io capisco molto bene il problema della politica, cioè la giuridificazione dello Stato che si compie attraverso lo Stato di diritto europeo dell'800 è davvero una forte mutazione rispetto a una vicenda costituzionale, statale, che è durata secoli in precedenza, in cui invece lo Stato era davvero liberamente monopolio della politica. Cioè lo Stato nei secoli precedenti, secondo me, si era caratterizzato per il tentativo di riuscire ad assorbire la politica, ed è verissimo che nel corso dell'Ottocento questo processo si inverte, che c'è invece una tendenza forte a togliere la politica dello Stato, per poi vederla finire, perché la domanda Raffaella evidentemente è vincolante ed è importantissima. Però questo perché è possibile? Come è possibile? È possibile solo a patto, nella mia visione, insomma, è possibile solo a patto che lo Stato si riduca a compiti più specifici, più limitati, è importantissimo, perché riducendosi affina le proprie capacità di intervento e di azione, evidentemente, grazie al diritto, diventa Stato di diritto. Ma questo può la riduzione di portata politica dello Stato è possibile solo se si ammette che c'è un allargamento della sfera di riferimento dei comportamenti umani. E in questa sfera di riferimento più larga dei comportamenti umani c'è spazio per altro, e questo altro è anche i luoghi dove la politica si fa. E allora bisogna tirare fuori un altro luogo comune, un'altra parola d'ordine, un'altra, quel che volete voi, che è la società, questa società di cui non a caso parlavi te, perché è lì che poi la politica di fatto si fa. Ma questa società non è una cosa astratta, non è una cosa generica, è un luogo dove, per esempio, tanto per dire un'altra banalità, si sviluppa l'economia, insomma. Ecco, allora io dico, io non lo so se i miei ragionamenti, che sono al solito confusi, perversi, insomma, eccetera, eccetera, vanno nella stessa delle cose che facevano molto comode. A mio avviso, questo Stato e questa società, che sono parole d'ordine, quelle che fanno, si radunano insieme, ed è possibile pensarli dall'Ottocento in poi come cose separate, perché sopra c'è una cosa più larga di ciascuna di loro che ne comprende. Io non so se si può chiamare ordinamento, non so come si può capire che cosa sia questa roba che sta sopra, che però alla fine finisce per essere il motivo legittimante, appunto, il problema della legittimazione, che continua a essere cruciale, insomma, che non è più il bonum publicum genericamente inteso, ma qualcosa di più preciso, eccetera, ma che continua a esserci, questa sfera generale diventa il motivo, il referente, il punto di riferimento fondamentale dei comportamenti individuali, sia che essi poi siano regolati specificamente dal diritto, nello stato di diritto, o dall'economia o altre cose, dalla sociologia, dalle scienze sociali, nella società. Questa cosa qui, secondo me, bisogna definire. Non a caso, e qui appunto per questo sono intervenuto prima di Giuso, non a caso lì, su questo gran luogo, insomma, mi pare che da 7 e 800 ci sia una straordinaria attività di ricerca e di riflessione in campo filosofico, filosofico-politico. Cioè, io credo che sia ora di cominciare a pensare che Hegel ha avuto un ruolo, no, in tutta questa trasformazione, che non è il solito ruolo che noi storici della politica o dello Stato democratici gli attribuiamo, cioè è stato un anticipatore di Hitler, insomma. Parola di uso. Sì, per cogliere questa provocazione probabilmente dovrei parlare più a lungo, anche pensarci di più, ma farei solo una annotazione, perché il problema è anche quello di capirci in relazione a alcuni termini che sono usati. Allora, quello che nasce e si chiarisce nel passaggio tra 7 e 800, comunque come dicevi tu, Sera, probabilmente a me pare che abbia un punto di partenza che non è allora esattamente quella storia dello Stato dal 300 in poi di cui tu parlavi, ma io naturalmente mi riferisco non tanto alla storia di cui si può o niente, ma alla determinazione concettuale da ciò che nasce in quella che chiamiamo insomma la scienza politica moderna a partire da Hobbes, dove non a caso lo Stato non c'è, ma c'è la società. E quindi è lì che da un punto di vista teorico nasce un processo che porta poi a, successivamente alla determinazione e alla distinzione di società e Stato, e da un punto di vista storico, a mio pare, oso dire, no? Una realtà che probabilmente difficilmente si trova all'interno dell'antico regime, al punto che nella voce Stato-sovranità del lessico tedesco, in realtà, quando si vuole parlare non degli antecedenti, non di quella cosa complessa che è l'antico regime, ma di quella cosa che si può determinare razionalmente in modo più univoco, che è stato, appunto, cos'è? Le parla della rivoluzione francese, il periodo della rivoluzione francese. Naturalmente quello che tu dici è una importante complicazione di tutto questo. Io volevo, però è legato anche a questo, semplicemente porre una domanda a Fioravanti, perché io, anche per mia incompetenza, perché non conosco molto bene tutte le linee di sviluppo dello Stato di diritto appunto nell'Ottocento, faccio sempre molta difficoltà a capire ciò che determina specificamente lo Stato di diritto in rapporto a, allora ritorno all'elemento che ho introdotto prima, al rapporto Stato-diritto o al modo giuridico di intendere la forma politica che nasce con la scienza politica moderna. Allora, a me pare di capire, ma non so se ho capito bene, e ti chiedo conferma, che in questa determinazione concettuale dello Stato di diritto, ciò che è specifico, perché non è specifico il rapporto con i diritti degli individui, con la libertà, l'uguaglianza, questa è una storia, come dire, di partenza di tutta la problematica dello Stato, ma ciò che è specifico è l'eliminazione, ecco, io non userei, perché mi pare che è un po' rischioso dal mio punto di vista, no, per me non direi l'elemento politico, ma di quell'elemento eccedente la forma, cioè la comprensione del politico da un punto di vista giuridico, che si ha appunto a partire dalla nuova scienza politica. In altri termini, mi pare di capire, a monte del problema della sovranità e a valle, qua non so se proprio lo si possa dire, ma insomma una messa tra parentesi dell'intervento diretto dello Stato nella forza. Ecco, ma allora io volevo porre semplicemente questa domanda. Tu dicevi, la legge è pur comando, è pur espressione in questo modo di volontà generale, ma nell'ambito della Costituzione, per quanto corrisponde alla Costituzione. Ma in questo modo di determinare la Costituzione all'interno dello Stato di diritto è possibile, allora ti chiederei come, pensare alla Costituzione senza implicare il concetto di sovranità da una parte e dall'altra il problema appunto di chi fa la Costituzione, cioè il problema del popolo o della nazione, che qua ci sono molte differenze, che è intervenuto all'interno della prima, della madre delle Costituzioni, no? Cioè della Costituzione del 91. E in altri termini, è possibile pensare la Costituzione senza il duplice elemento, quello costitutivo della sovranità e quello costitutivo realmente, che mi mostra allora come possono andare insieme liberalismo, riferimento a tutto ciò che è altro dallo Stato e statalismo, che è il concetto di rappresentanza. No, abbiamo discusso tante volte con Beppe Fuso di queste cose. Io penso, insieme a lui, non esistono, ho sempre detto, non esistono costituzioni moderne senza potere costituente. No? Questo ne abbiamo discusso una volta, mi ricordo anche a Venezia, su questo io sono assolutamente, però capire questo va capito, che questa stagione che si apre dopo la rivoluzione e che arriva fino alle nostre costituzioni attualmente vigenti, che non è una fase da poco, che quindi è dopo il diritto naturale moderno a cui fa sempre riferimento tu, e prima del nostro presente, questa è la fase dello Stato di diritto in Europa. Quindi in questa fase qui si fa largamente a meno del potere costituente. Questo, il punto di divergenza mette, inizia nel momento nel quale, siccome questo non corrisponde più alle tue caratteristiche del moderno, per te è inspiegabile e allora non, è come se non fosse esistito, no? E invece non è così, perché questo è stato un progetto formidabile. È stato talmente formidabile che, nonostante che le nostre costituzioni si fondino esplicitamente oggi su una ripresa del potere costituente, continua a vivere ancora oggi. Perché noi ancora oggi abbiamo bisogno di questa idea dello Stato di diritto per sentire unita una qualche dimensione politica. Ed anzi, ancora oggi questo ci rassicura di più che non il vecchio amato o leato potere costituente. Questo bisogna spiegare, anche se non torna rispetto alle categorie. Perché secondo me in quella fase si è capito, io lo dico come forma, che continui a dire che cos'è lo Stato di diritto e cosa c'è di diverso. Lo Stato di diritto, loro hanno capito, secondo me, che era il modo migliore possibile dello Stato per essere sovrano, detto male. Questo è il punto, cioè essere Stato di diritto era il miglior modo possibile dello Stato per realizzare condizioni di sovranità, di ordine, di unità politica. Perché funzionava quell'idea, dobbiamo capirlo questo caso, funzionava bene quell'idea. Noi ora abbiamo sulle spalle qualche decennio di crisi della dimensione generale, astratta, della legge, l'atto amministrativo non è più un vero atto amministrativo, ma allora questo ha funzionato, e ha lasciato segni profondissimi, io insisto su questo. Quindi questo, anche se diverge dalle categorie del moderno, se, per esempio, loro non parlavano di potere costituente, non parlavano di regime politico, non parlavano di indirizzo politico, e che cosa sarebbe? Io sono d'accordo con te. È stato quello che è stato, in questo progetto c'era un pensiero forte, che era questo di dominare il complesso dei resistenti attraverso la giuridificazione dello Stato e del politico. Ecco. Poi continueremo a parlare di questo. Io volevo dire una cosa, mi ha fatto molto piacere quello che diceva Pierangelo. Io sono d'accordo su questo punto, se il progetto è togliere la politica dal tuo Stato, è chiaro che è uno Stato più ridotto. Tant'è che se noi andiamo a esaminare, per esempio, le idee di questi giuristi in materia di politica economica, l'intervento dello Stato sulla società, scopriamo che è un po' un luogo comune il fatto che loro fossero degli statalisti, siccome non erano, diciamo, la semplificazione degli inglesi, no? Allora sono statalisti, siccome erano antico tedeschi, non volevano niente. E dalla Germania non presero mai quel filone dell'intervento massiccio e programmato dello Stato sulla società. Invece erano, insomma, Orlando era, diremmo oggi, un cooperativista. Ecco, si studia la biografia politica di Orlando e si scopre che ha presieduto migliaia di società, qualche decina di società cooperative, fino all'ultimo della sua carriera politica. E la linea è quella di un intervento dello Stato sulla società sussidiario, rispettoso di tutti i momenti nei quali la società ce la fa da sola, insomma, no? Dell'aiuto alla dimensione cooperativa, non dell'intervento dello Stato sulla società. Anche questo è un luogo comune da rivedere. Torna col tuo discorso, che cioè la società appare. Però io aggiungo una cosa, appare e non appena appare, gente muta dai giuristi su questo non c'è dubbio, tant'è che l'altro grande capitolo della dottrina dello Stato di diritto è la giuridificazione della società, non solo dello Stato. Quindi il chiamarla in termini di popolo, nazione, concerte, nozioni tali da poterla contenere dentro lo Stato, questo è chiaro. Però questo punto nel quale io divergo da quello che tu dicevi è probabilmente solo, questo è il punto per me interessante, il punto dei giuristi. Perché se noi andiamo alle scienze dello Stato e della società e abbiamo un'idea più complessa dentro il quale c'è anche il giuridico, allora nasce questo problema, le scienze dello Stato e della società e come sta insieme tutto questo. E qui poi sulla parola ordinamento.